Tornamenti da Copenaghen, ma abbiamo proprio un nostro compagno in diretta. Intanto ti auguro un buongiorno. Buongiorno, in questo caso letteralmente. Ecco, lo so che... Allora, noi abbiamo sentito ieri sera un compagno della Cristiania che ci raccontava appunto dell'ingresso proprio della polizia dentro Cristiania. Se ci vuoi raccontare anche come è andata questa nottata, di cui tu insomma sei stato protagonista in qualche modo. Sì, io assieme penso a quasi tutti i compagni italiani che stanno qui a Copenaghen in questi giorni, siamo stati fermati ieri sera a Cristiania. Ieri sera, insomma, è acceso qualche fuoco attorno a Cristiania. Ci sono stati un paio di ore di scontri tra i manifestanti e la polizia alle porte di Cristiania. Una situazione, insomma, si stava tranquillizzando, anche si stava pronto a capire anche come, insomma, la situazione si potesse sciogliere. Scusate se parlo così, ma sto dentro i dormitori. Ah, quindi tu, scusa, ma tu sì. Ti hanno rilasciato adesso? Sì, sì, ci hanno rilasciato, i romani, penso tutti, italiani è da vedere. E comunque, insomma, in questa situazione, insomma, proviamo a scioglierla, quello che è successo appunto a questo ingresso in forza entro Cristiania, la polizia che ha cominciato a circondare anche, per esempio, il concerto ufficiale con quel mobile a ieri, fermando a caso le persone. Gli italiani eravamo quasi tutti dentro, vicino a un pub, chi fuori chi dentro i cristiani, a capire come, insomma, si poteva uscire da Cristiania. Sono stati fermati, che io sappia, tutti, e tirati fuori uno a uno anche dal pub, nonostante, insomma, le scene surreali con la chi gestisce questo pub, che metteva per esempio le canzoni di Natale, Jingle Bell, Happy New Year, e così, insomma, indifferente anche alla scena veramente surreale, starci via da una baita per le canzoni di Natale, cioè, ha deciso comunque di arrestare tutti, ammanettati e messi come le foto che avete visto, insomma. Non so se già girano immagini di ieri sera, come le foto del 12, insomma, messi in fila indiana per terra, uno appresso all'altro con le gambe aperte, portati in queste famose celle, che sembrano, insomma, quelle voliere, e poi ci hanno rilasciato, insomma, intorno alle 6 del mattino. Sui fermi, chiaramente ieri sera hanno teso molto a differenziare le posizioni, nel senso, se io e altri sono stati trattati come insomma sono trattati gli altri fermi l'altro giorno. Ieri sera alcune persone, sappiamo ad esempio un compagno di Trieste, per esempio, sono state prese dalla polizia, e a caso, almeno per quello che io ho visto, ci ha detto: noi a te ti abbiamo riconosciuto, te hai lanciato le bottiglie, a te ti abbiamo riconosciuto, te stavi lì, in maniera del tutto arbitraria. Questo almeno è, insomma, quello che io ho visto. Insomma, la giornata di oggi si dovrebbe invece svolgere con delle azioni attorno al tema dell'industria dell'agroalimentare, magari andiamo a contare una serata, ma soprattutto, insomma, sta crescendo il clima attorno al 16, la costruzione del 16, già lo raccontavo ieri, in realtà è un po' al centro anche di queste giornate, a parte varie manifestazioni e azioni tematiche, a maggior ragione lo sarà oggi. Sta crescendo, insomma, l'attenzione anche degli attivisti attorno al 16, la preparazione dei gruppi di affinità verso questa giornata, chiaramente tenendo conto anche di quello che è successo ieri, perché, siccome raccontavo ieri, insomma, la mattina con la manifestazione no border, eccetera, sembrava che il meccanismo dei fermi di massa, eccetera, si fosse in qualche modo sbloccato anche per le critiche e le pressioni che riceveva lo Stato e la polizia danese, e ieri sera, insomma, ci informa in maniera chiara che non è così. È evidente che c'è un cambiamento anche, appunto, nella gestione di piazza, proprio in avvicinamento anche dell'appuntamento di domani, che è un po' quello centrale, no, del controvertice di questi giorni. Sì. Chiaramente quello, insomma, è l'assedio in qualche modo al Bella Center, che è dove si sta se dove si sta tenendo il vertice, il cambiamento atteggiamento è stato in realtà ieri sono molto in linea con quella cosa negli stessi giorni, con la differenza in qualche modo che ieri le cose nella di questa città in qualche modo giustificassero l'intervento sul sull'ordine sono successe, però si è riverificato in qualche modo la tornata fatta dalle forze dell'ordine, che prendono tutti in maniera assolutamente indiscriminata. Parliamo anche di gente presa per strada, casualmente, fuori Cristiania. Ci dicono anche insomma che da Twitter, tramite Twitter, molti delle persone che abitano a Cristiania hanno abbastanza informato minuto per minuto di quello che accadeva, retate coi cani dentro Cristiania, nelle strade attorno. Insomma, il tentativo chiaramente è quello anche di intimidire la partecipazione a domani, dopo che oggi invece il meccanismo un po' anche della paura e ragazze nella stazione eccetera sembrava si fosse sbloccato, chiaramente questo tentativo ci sta. Senti, no, oltre a augurarti buongiorno a dire dalla voce hai lasciato molto tardi. No, figurati, assolutamente comprensibile. E, la domanda che diciamo più o meno sta diciamo al centro poi della discussione diciamo, a distanza a Roma in questo momento è anche una valutazione. Noi siamo molto interessati al dibattito pubblico che si sta tenendo. Il dibattito pubblico fondamentalmente risente anche di una diciamo in questo momento di una diciamo di un cortocircuito informativo, nel senso ovviamente dall'Italia tutto risulta è molto relativo, cioè l'atteggiamento comunque della polizia è ovviamente consono e conforme a una cultura anche della responsabilità degli apparati di ordine pubblico che sicuramente non è la stessa che abbiamo qua nel Mediterraneo, nei paesi mediterranei. Mi riferisco appunto al discorso sui fogli di reclamo, sul insomma tutto quello che sono le no, quelle piccole tra virgolette, ovviamente mille virgolette, accortezze, gentilezze che in questi fermi di massa comunque vengono mossi. Resta il fatto che però appunto si è praticamente impedita anche la manifestazione più pacifica in questi giorni, diciamo, che diciamo uscisse fuori dalla marcia e dalla processione. Allora è evidente che questo qua non è nulla di nuovo. Ah, sono uscito, posso parlare un attimo più liberamente. È evidente che la polizia non ha nulla a che fare con quella italiana, perché ieri insomma sei trattato durante i fermi o questo qua insomma lo sapevamo in maniera molto bene, quanti lui molto gentili, nessuno gli torcerà un capello. La cosa allucinante è tutte queste operazioni stanno venendo fatte, faranno svolate 20 manganellate in tutto, non si è senza nessuno si sia stato applicato un punto di sutura per le operazioni delle forze dell'ordine, nel senso è tutto molto molto molto sulla gestione dell'ordine del loro operato tranquillo e democratico. Chiaramente come dicevi te il problema si sta ponendo in maniera molto forte, che anche se insomma le operazioni vengono portate a termine con questa tranquillità anche nei modi, negli atteggiamenti degli agenti, a parte che insomma sempre 3 ore buttata per strada, la gente è stata ammanettata, sempre polizia perché. Comunque nel senso che no, nel senso c'è, nel senso anche sempre delle scene alla Guantanamo si stanno producendo, la gente nelle gabbie senza motivo per ore e ore al freddo, buttata in mezzo alla strada, comunque come siamo stati noi per dire ieri per un'oretta, cioè chi ci ha passato 3 ore e 12 con quelle immagini, insomma non stanno facendo il giro del mondo, chiaramente sono un problema forte dell'agibilità politica minima dei movimenti, appunto anche ieri è stato un grandissimo risultato riuscire a sfilare su dei percorsi non autorizzati senza che la polizia ci chiudesse ieri, insomma anche perché in maniera molto determinata ma pacifica e festosa si è evitato che il corteo fosse chiuso. E comunque si è fatto capire chiaramente quando hanno provato a cominciare a fermare le persone che sarebbe stato un casino fermarle tutte 2000, non sarebbe stato sarebbe stato molto problematico rispetto alla mattina dopo fermarle tutte. E là, insomma, ci hanno fatto sfilare, sembrava appunto che quel meccanismo si fosse un po' sbloccato. Invece ieri, anche attorno a appunto questi gruppi dei compagni danesi, non solo, che hanno provato a bloccare la città partendo da attorno a Cristiania, alzando qualche barricata, alzando qualche cassonetto in mezzo alla strada e rispondendo poi ai tentativi delle forze dell'ordine di sgomberare le strade fino a rientrare dentro Cristiania con i lacrimogeni appunto sparati fin dentro Cristiania, che sta appunto svolgendo tra l'altro una grande festa per CGA a seguito del dibattito assemblea di ieri nella tarda serata. Chiaramente si sta ponendo un problema in qualche modo proprio di democrazia, ma non soltanto si sta ponendo la Danimarca, evidentemente si sta ponendo a livello europeo. Ieri penso che tra i fermati ci sarà stato un centinaio di italiani, e quindi si sta ponendo, penso, a tutto quanto il continente questo problema della gestione dell'ordine pubblico. Non è un problema della democrazia olandese, in qualche modo danese. Senti, no, un'altra cosa, più che altro rispetto ai fermi quelli convalidati dei giorni scorsi, voi avete idea di quali sono le posizioni, più o meno i numeri, l'entità di chi ha avuto la convalida dell'arresto nei giorni scorsi, a quanto ammontano e appunto quali sono questo momento? Mi sembrava che fino a ieri il totale dell'ammontare dei fermi complessivi non superasse di molto la ventina. Tutti quanti per motivi possono andare dal porto di oggetti a sospendere a sostanze stupefacenti, alcuni dei quali avranno l'udienza nei prossimi giorni, la maggior parte presumibilmente rilasciati, insomma. E chiaramente la giornata di ieri pone invece un problema molto diverso, insomma, anche sui fermi e sulle loro conseguenze, perché fin da subito, sto raccontando, hanno separato delle persone in maniera piuttosto arbitraria, come hanno lasciato andare anche per dire persone in maniera assolutamente più o meno casuale, dando proprio quelle persone invece separandole dai gruppi, facendogli a loro le foto segnaletiche, per dire a noi non sono state fatte, separando immediatamente con i loro aspetti personali la loro bustina fin da Cristiania e portati separatamente nei centri, qua questi centri di identificazione, e quindi secondo me la giornata di ieri in cui effettivamente le cose sono successe nella nottata di ieri porrà un problema un po' più serio sui fermi. Io però ancora non ho idea di quanti siano, penso che insomma si stia capendo in realtà in queste ore, essendo che comunque hanno cominciato a rilasciare le persone intorno alle 6 del mattino, penso insomma anche il legal team, gli stessi gruppi internazionali, per dire che stanno qua, che stanno facendo un'idea complessiva adesso. Noi sappiamo sicuramente di un compagno di Trieste che insomma, da come stava andando la cosa, non sarebbe stato rilasciato con noi. Sì, pronto? Pronto, ci senti? Sì. Sì, non so se avevi finito il ragionamento su questa cosa. Perché un'altra questione, in questo momento la contestazione a COP15 è viaggiata su canali e livelli, al di là appunto di quello che è stato permesso o meno dalle forze dell'ordine, però assolutamente anche un'organizzazione assolutamente vari e comunque apparentemente con una buona anche dialettica fra loro di pratiche, di identità e di meccanismi. Già dai primi giorni invece notiamo come fra i lavori, diciamo. Pronto? Sì, ti ascolto. Già dai lavori sul piano appunto più forum di riflessione, i tavoli di discussione iniziano a prodursi anche dei meccanismi di distanza da quelli che sono visti come delle in qualche maniera delle rotture del dibattito, della costruzione di dibattito all'interno nelle giornate. Ora, voglio dire, ieri sera verso le 8:30 Naomi Klein addirittura faceva un appello a non praticare, diciamo, azioni dirette durante il 16. Ora non so se qualcosa è cambiato, qualcosa si è rotto, c'è una riflessione condivisa intorno a questo passaggio, tra l'altro, non è stato un passaggio che è passato tra gli applausi, è passato tra una forte dibattito e un forte dialettico a questo passaggio di Naomi Glenn ieri. Mi sentite? Sì. Ok, sì, ti sentiamo. Sicuramente quello che dice in qualche modo è vero, non tanto nei termini in qualche modo di dissociazione o prese distanze, ma sicuramente di ripiegamento di molte delle realtà che sono qua solo su quel livello. E io non ho almeno questa percezione di, in qualche modo, di criminalizzazione di quello che succede per le strade o che potenzialmente potrebbe accadere. La sensazione che ho è più simile, insomma, in qualche modo a un tirarsi indietro e a schiacciarsi soltanto da alcune realtà, a schiacciarsi soltanto sui momenti, appunto, di discussione, di dibattito, di costruzione di senso anche di queste giornate. C'è da dire, per esempio, che invece in realtà anche grosse sociali come via Campesina ieri continuavano a scendere in piazza. C'è una buona dialettica, c'è anche, insomma, a parte ci sono anche diverse migliaia di giovani, anche un po' venuti a fare tutta roba, un po' anche sciolti socialmente qua a Copenaghen, le organizzazioni, anche le ONG più grandi, eccetera, appunto. Che io ho non è tanto che, appunto, stiamo facendo un'operazione di criminalizzazione, ma quella invece di dire vabbè, noi facciamo altre cose. Però questo potrebbe ovviamente influire anche altre cose, che non vuol dire il contrasto con la polizia, cioè altre cose, non perché chi sta in piazza in questo momento sta affrontando tutti i giorni con la polizia, ma semplicemente che ci sta un livello ritenuto insostenibile anche di potenziale, anche soltanto potenziale confronto alla polizia, visto che vengono tutti quanti continuamente fermati in ogni situazione. Anche perché siamo su tutto il livello di energia potenziale in questo momento, pare di capire, di espressione delle pratiche di riappropriazione della piazza. Ieri sera chiaramente c'è stato un momento un po' di esplosione anche della rabbia trattenuta in piazza in questi giorni. Rabbia dovuta anche al fatto, insomma, che non è che non parliamo veramente che di compagni che sono fatte 12 ore di fermo per avere una bombetta spray dentro lo zaino, insomma, la situazione assurda. Noi per dire che ieri sera, mentre tornavamo, ci stavano fermando, arrivando al dormitorio, due camionette di polizia, alle 6:30 di mattino, dopo esserci fatti non so quante ore di fermo, gli abbiamo detto guardate, lasciateci in pace, ci hanno appena fermato, ci hanno comunque voluto identificare alcuni di noi che tornavano. Quindi chiaramente ieri c'è stato sulle pratiche di piazza un po' il momento di esplosione della rabbia. È chiaro che in tutti gli appuntamenti ufficiali questo qua non esiste. Ieri ad esempio si è riuscito a girare la polizia con una dinamica assolutamente di massa, ma pacifica, di massa pacifica, determinata, festosa, che ha anche funzionato, che ha accerchiato la polizia in certi momenti, ad esempio, che insomma ha ricominciato a prendere parecchia, insomma, forza, anche per questo dobbiamo immaginare dinamiche e manifestazioni di massa a cui loro non sono molto abituati. E già ieri capire che ci si potesse tenere per mano a fare dei cordoni per trovare il corteo è stato un grande passo avanti, insomma, le manifestazioni si stanno svolgendo in questi giorni. Quindi ieri, insomma, si è ripreso pure coraggio, adesso è un po' da vedere come andranno le cose di oggi. Magari poi ci sentiamo stasera e le racconteremo, anche perché qualcosa dovrebbe star già detto per accadere, insomma, anche in queste ore. Ma ad esempio anche l'appuntamento autoconvocato il giorno del porto, e invece non autorizzato, è andato a contattare la MASC, una grossa compagnia di trasporti e traffici, anche quell'appuntamento, nonostante potesse potenzialmente non avere immediatamente stato sul collo le forze dell'ordine, è stato bloccato, un centinaio di arresti anche in quel caso e così via. È anche molto complicato, ad esempio, muoversi per la città senza portare qualcosa che non sia un pacchetto di sigarette, il documento cellulare e i soldi. Insomma, anche sui pennarelli uno viene fermato, quindi è anche proprio un problema di agibilità, praticare anche presidi simbolici e rumorosi ma non autorizzati, insomma, noi stiamo parlando per forza di... Yeah. niente, è finita la scheda internazionale, ci dispiace dover tagliare il collegamento perché avremmo dovuto anche ragionare su come mobilitarci qui, insomma, in Italia, anche in sostegno ai fermi, ma soprattutto per collegare un po' quello che sta accadendo a Copenaghen con la